Non vuol pagar. Questa mattina, ma la vedrò fra poco. E che volete da lei? Si può sapersi che mi porti dei fior freschi e diversi. Oh, non le dico nulla, perché questa fanciulla l'amo, la vuol sposare, e così spesso per i caffè mai volenter la veggio. Perché? Perché alla peggio fra i sorbetti e il caffè e la cioccolata può restare inchetrita o abbrustolata. Ma quelle figure Che vuoi tu far dei fiori? Costano essi danari. E tu di loro non hai bisogno, onde apparir più vaga. Oh, lasciamo pensarci a chi li paga. Ci piovono i zecchini, e chi spende i suoi quattrini, e chi spende i suoi quattrini, si fa spesso minchionar, minchionar. Ma noi vecchi, botteghieri, andiam spesso alla malora, si fatica, si lavora, si consuma il capitale, si consuma il capitale. E si manda il principale, quando vuol farsi di pagar. E si manda, farsi di pagar, farsi di pagar. Farsi pagar. Gran bottega sempre quella, che sia nuova, che sia bella, che sia nuova, che sia bella. La son pieni camerini, la ci piovono i zecchini, e chi spende i suoi quattrini si fa spesso minchionar, sì, sì, minchionar. Ma noi vecchi, botteghieri, andiam spesso alla malora, si fatica, si lavora, si consuma il capitale, e si manda il principale, quando vuol farsi pagar. E noi vecchi, bottinghieri, andiam spesso alla malora, si fatica, si lavora, si consuma il capitale, e si manda il principale, quando vuol farsi pagar. E si manda, farsi pagar, farsi pagar, farsi pagar. Padre mio, che gente arriva! E gente di riguardo! Uno sfimer dorato e coi cristalli! Due postiglioni ancora! Quattro cavalli! Due lacchei inargentati! Un gran signore senza dubbio sarà! Guardalo, figlia! Quanto mai rassomiglia a Fumeo Camarier, matto e glorioso, che deve ser tuo sposo! Sì! Ma col suo padrone io a Milano adesso. Esser può di ritorno. Ed esso, ed esso. Son ricco, son bello, sono un conte che posso contar, sono un conte che posso contar. Largo, largo, largo, largo, cavate il cappello, cavate il cappello. Oh, perbacco, vi fo bastonar. Largo, largo, e cavate il cappello. Oh, perbacco, vi fo bastonar, vi fo bastonar, vi fo bastonar. Son volito, son ricco, son bello. Son polito, son ricco, son bello. Son un conte che posso contar, che posso contar. Largo, largo, e cavate il cappello. Oh, perbacco, vi fo bastonar. Son polito, son ricco, son bello, son conte, cavatevi il cappello, sì. Oh, perbacco, vi fo bastonar. Oh, perbacco, vi fo bastonar. Oh, perbacco, vi fo bastonar, vi fo bastonar. Sei tuo amico? La che? Siete o non siete lo sposo mio? L'altro la che? Tacete! E non ci guarda nemmeno, né sacchi di raccioni. Una sedia a bricconi in questo sito, io vo senza parlar, esser servito. Parlate ora che siedo, e vi rispondo. Sei tu Fumeo o non sei? Da voi saper vorrei qua scena è questa sì grottesca e strana. Non son Fumeo, ma son Conte Fumana. Conte, da quando in qua? Conte Pancotto. Da quel giorno che ho vinto un terno all'otto. Mandai alla malora il padrone, il salario ed il mestiero. E la voglio spacciar da cavaliero. Ma i soldi, amico mio, di questo passo presto andranno a spasso. La che? Ma al punto principal non ci vien mai. Quello che preme è di pensare insieme ora che un ricco signor fatto vi siete. Quando ci sposerete? Quando volete. Manco male, io credea che il fumo e la contea mi fosse andata già sino al cervello, e qualche amor novello mi facesse tradir la mia figliuola. Dunque, mi sposerete? E chi ve lo contrasta, se qui venni per voi? Questo mi basta. Thank you. parrucchiere. Torni il sartore, vada il fattore, scrivo il mercante, scrivo il mercante. Che il mio galante lo pagherà, che il mio galante lo pagherà, che mio galante lo pagherà, che mio galante lo pagherà, lo pagherà, lo pagherà. Quei due che scendono da un calesse di vettura e ver qua addirittura in assai buon arredo mostrano di venire. Ora li vedo, son fratello e sorella, forse conti marchesi o cittadini. Poi boh, son ballerini, l'un messie bella gamba e l'altro è detta madama la scaffetta. La che? Non vi scostate troppo dal fianco mio, onde si veda che il padron son io. Caffè, signor comandi, per me una limonata. E per me, se si può, la cioccolata. Subito sian serviti, tenete intanto che un zecchino è questo, e mi darete il resto. No, l'onor vi sia dato che dove ci son io, tutto è pagato. Troppa bontà, signore. A noi questo favore, se di servirvi anch'io fossi capace. La che paga per tutti, ella mi piace. Siete voi del paese? E voi siete straniera? Veniamo dall'Inghilterra. E dove adesso? Se ne fosse permesso e si trovasse un comodo soggiorno, vorrei qui villeggiar per qualche giorno. La che presto un alloggio, uno ce n'è vicino. Vederlo, se non c'è troppo cammino. La che, la mia carrozza, che li serva colà. No, ecco, venga il caffettier, che noi ci andremo a piedi, e intanto qui di riposare se brava, custodita da voi, resti madama. La barchetta voi sia cara, ch'io vi voglio suo timoniero. Non è già barca corsara, non è già barca corsara. E innocente del mestiero, senza voi si romperà, sì, sì, si romperà. Voi spaccate e capriole, ma caval sempre del posto. Pochi fatti, assai parole, scorti calo sino all'osso, che parendo qua a metà. E innocente del mestiero, senza voi si romperà. La barchetta si romperà. Scordicalo sino all'osso, sino all'osso, che parendo po' a metà, che parendo po' a metà, che farem, che farendo po' a metà, che farem, che farem, dopo a metà, che farem, dopo a metà, che farem, dopo a metà. Che bella figurina! Tutta a comandi suoi, sera e mattina! Avete voi marito? Non la speranza indito! Ed ecco qui l'anello che lo sposo mi dì. Questo è più bello, tenete che bel dono. Grazie, ma chi lo porta più bello è ancora? È innamorata morta, la che dell'acqua fresca piata al fuoco vicino, ardo e mi struggo. Dunque mi inchino e fuggo. No, che per starvi appresso che non farei. Perché non lo fate adesso? Mi sposereste voi? Subito o niente? Presto, lacche, ch'io vado in accidente. Un po' di melessa che già sviene il poverino, che già sviene il poverino. Ma se guardo fissa, lo farò resuscitar, lo farò resuscitar. La domanda di Regina, se mi con una manina, o che gusto, da provar, ad provar, ad provar. dice? Cosa venato? Reggersi fa per chi non può star saldo. Son fumane d'amor. Niente, oh che caldo! Questa smania amorosa per chi, signora mia? Per la sua sposa. Lo volevo ben dir. Sposa mia bella, che amore, che fortuna. Zippola, che tal si crede ognuna. Veda cosa avete di me tra questi fiori. Ma di tutti i colori, o nandisi nostrani, carofani, giacinti, tulipani. Ma con queste signore non c'è per farsi onore. Ci sono io. Voi dividete, o belle, fra voi di questi fior, che siete entrambe un fior di primavera. Brave, almen due sonite. Oh, vado anch'io, che tra poco non più voi mi vedrete. Perché? Sono da nozze. Quando? Forse dimani. Con chi? Con un villano detto Cicara. L'amate? Amo di più chi mi regala. Sicché posso sperare. Cosa? La mano. La Cicara è un villano. E voi? Un cavaliero. Thank you. quieti. Furbillari, malignetti, dove regna il dio d'amor? Son per te qual nave al vento? Qual torre in mezzo all'onde? Meglio ancor, qual pecorella? Meglio ancor, ah, non trovo un parallelo per esprimer quel flagello. E tormenta questo cor, ma non trovo un parallelo per esprimer quel flagello che tormenta questo cor, che tormenta questo cor, che tormenta questo cor. Cara, sei pur bella, bel visino, begli occhietti, sì. Furbillari, malignetti, dove regna il dio d'amor? Son per te qual nave al vento, no, qual torre in mezzo all'onde, meglio ancor, ancor, qual pecorella, no, ah, non trovo una parallela per esprimer quel flagello che tormenta questo cor. Sei pur cara, sei pur bella, bel visino, begli occhietti, furbi ladri, malignetti, son per te qual nave al vento, no, ah, non trovo un parallelo per esprimer quel flagello che tormenta questo cor, sì, che tormenta questo cor, sì, che tormenta questo cor, sì, questo cor, sì, questo cor. Chi vuol trovar Dorina, dove sei le mattina, sempre al caffè. Ma quando sia mia moglie, questa sarà finita. Voltir sarà al caffè tutta la vita. Perché? Forse a un marito di subidir vorrai. Perché tua moglie io non sarò già mai. Come? Me l'hai promesso. Come? Nell'orto tuo è il vertigo. Via, torniamo colà, che io mi destico. Oh, questi tuoi pensieri, vedrai crudele dove a finire andranno. Se finiranno mai, sarà mio danno. Thank you. gente del vicinato, soccorso un disperato. Cos'è questo bordello? Hai tu perso il cervello? Si ven questa mattina a perdermi il Fedorina. Ella m'ha detto che sospira e brama un certo tal che la vuol far madama. Sarebbe mai quel pazzo che deve oggi sposar la figlia mia? Quel villan temerario è ben capace di qualche stramberia. Con Dorina per mano, eccolo intanto. Non lasciate partire che subito ritorno e gliela canto. Senza rumore si può parlar, senza rumore si può parlar. Quante combriccole fanno il pensiero, quante combriccole fanno il pensiero. Non pare in collera altro stordito, ma lo lasciala star. Questo schioppetto, un po' di polvere, un po' di piombo, tutto in un subito può accomodar. Poter del diavolo, cosa ti credi, cosa ti credi farmi tremare? Da te, da te sta fieri, schioppi, schioppi, pistole, per te scopo villando, sarà pagarsi. Chi delira, cosa vuole sull'osa?